intervenuta per sedare la... Tu sì. Ehi, ciao, buongiorno. Bacio sei Antonello, come vai? Sono stato un dipolo, per bisogno. Ma sei Sant'Enna, sì. Ehi, ecco perché. A radio, basso, anche il segnale basso. Aspetta che metto la temperatura della macchina per essere sentito meglio. Andiamo! Ciao, Luca. Ciao, Lu. Buonasera. No, ma va bene, 9:20, vabbè, qua più vicino a me, 9:10 abbondante. Tu sei vicino. Prova Antonio a mettere la portante, se butta però, Adesso con l'altra nella macchina, meglio va. E adesso è aumentato, dai. Adesso è già aumentato, adesso 6:08, E vabbè. Ok, sono con la Turbo 2001 adesso. L'antenna, come mai? Il fulmine. Da molto. Sì, quasi un mese. Massa non lo avevi? Ho capito. Ecco, Massa non ce ne avevi. E non è questione di Massa, no, me l'ha fatto per esempio l'antenna. Adesso è andato bene, E l'apparecchio? Fortunatamente l'apparecchio non ha fatto niente, però i due televisori hanno preso fuoco. Quando fare questa cosa per il tifano, un di pasta la che brucia cazzo vecchia, un'altra tre piatti adesso, là. Domani me la portano. Io lo sento benissimo, vabbè, più vicino a me. La canaglia, ma il fumo gli ha spaccato tutto. Un di fa, raga. A Mario l'aveva buccato il mezzano, il muro, che dove c'era il baracchino, si può immaginare. Perché l'antenna era distaccata e piena, toccava il muro, ha buccato il muro. Immagino. Mario Mao, cazzo. Cazzo, la volta, cazzo. Meno male l'ha distaccata l'antenna. Quando entra fa danno. A me mi ha sciolto il, come si chiama, il, come si dice, non mi viene in mente il nome, quello, il termico, capito, di casa. Proprio un altro al telefono. Eia, bu. Allora, per carità, per carità. Anche la VHF non ha fatto un accidente, ma con suo legge l'ha fatto, perché è plastificata. Cosa non ho capito? L'ex 600 non gli ha fatto niente perché è tutta plastificata, ho detto. Certo. Se è stata la mantova così, sempre stata la cosa inversa. Che preghiere, che preghiere. Oh, ia. A tre, Tonello.